Ora la parola è a Cecilia Nubola che gioca in casa, per così dire, ecco, e ci parlerà di comunità rurali e gravamina. Sì, invece non Invece rispetterò. no. Dalla Cecilia Nubola posso aspettarmi di tutto, quindi non sono responsabile. No, non sono riuscita in realtà a integrare i due termini, per cui oggi parlerò quasi esclusivamente di comunità rurali e non di gravamina. Spero di riuscire a fare questa integrazione per gli atti. Quelle che seguono sono solo proprio delle annotazioni di una ricerca che vorrei intraprendere, ma che è ancora ai primi passi, e le comunità rurali, appunto. Dal punto di vista storiografico, negli ultimi 2 decenni, la storiografia sui sistemi politici e sulla nascita dello Stato moderno, da un lato, la microstoria, d'altro lato, pur partendo da metodologie e interessi diversi, hanno entrambe richiamato l'attenzione sul territorio e sulle strutture territoriali. Mentre contemporaneamente la crisi del modello tradizionale di Stato moderno, in particolare per i primi secoli dell'età moderna, ha portato alla rivalutazione di categorie come società corporata, società pattizia, per studiare la rete di rapporti fra strutture diverse di potere. Un altro settore a cui fa riferimento è la storiografia sul mondo contadino, in particolare sulla guerra dei contadini e sulle sollevazioni e rivolte che si susseguono in Europa nel corso dell'età moderna. Se questi costituiscono i momenti della rottura violenta, per comprenderne le motivazioni è necessario ricostruire la struttura organizzativa interna delle comunità, gli equilibri e i cambiamenti degli equilibri interni in seguito a modificazioni nei rapporti con l'esterno, modifiche del mercato o nella proprietà della terra, aumento dell'esazione fiscale o nuove leggi e ordinamenti e così via. Quali sono le comunità che mi interessano? Non voglio stabilire delle tipologie rigide, anche perché solo dare alcune linee di tendenza. Io mi interesso di quelle che sono appunto le comunità rurali, chiamate anche vicinie o universitas. Sono quei paesi e villaggi in cui predomina la piccola proprietà contadina e parte della terra è proprietà indivisa collettiva dei vicini, beni comuni, usi civici. Sono comunità che hanno una giurisdizione particolare codificata negli statuti rurali, chiamati anche carte di regola o statuti campestri. Il processo di codificazione può essere diverso da luogo a luogo, anche se sembra sia possibile ipotizzare una grande stagione fra 5 e 600 e un'altra nel XVIII secolo. Le norme principali degli statuti campestri riguardano la regolazione e l'amministrazione dei beni collettivi e l'uso del territorio, dei pascoli, dei boschi, delle acque, la protezione delle colture, il calendario delle pratiche agricole e silvopastorali. Altre norme definiscono l'ambito della comunità, stabilendo chi sono i vicini, e regolano la missione dei forestieri, fissano le cariche comunali e le regole di elezione. Gli statuti normalmente sono approvati nell'assemblea dei capifamiglia, che è chiamata anche regola, e confermati dall'organismo politico superiore, il feudatario, il principe o la repubblica. L'assemblea dei vicini si riunisce per eleggere le cariche comunali con sistemi diversificati, ma non troppo, e per prendere le decisioni che riguardano la vita della comunità. Mentre il sacerdote in cura d'anime era responsabile dell'amministrazione del patrimonio connesso al proprio beneficio, i responsabili della gestione del patrimonio delle chiese, chiamato anche patrimonio delle fabbriche, erano i comuni rurali e vi provvedevano in varie forme. Normalmente a questa funzione erano incaricati alcuni uomini del paese e le modalità di elezione e i compiti loro attribuiti erano regolati da norme non scritte e dal diritto consuetudinario, variavano da zona a zona, da paese a paese. A volte negli statuti rurali si trovano inserite le norme che stabiliscono i criteri di nomina, la struttura e i modi di gestione anche per il patrimonio delle chiese. Nel Principato Vescovile di Trento, ad esempio, i sindaci delle chiese dovevano essere nominati in occasione del rinnovo delle cariche comunali all'interno della pubblica regola. erano eletti dai capi comune oppure direttamente dall'assemblea dei vicini. Il loro numero poteva variare a seconda della vastità del territorio comunale o plebanale, dal numero e dall'importanza delle chiese. A volte avevano il duplice incarico di curare sia l'amministrazione del comune che quella delle chiese. Questo tipo di organizzazione della comunità rurale sembra piuttosto frequente nelle zone alpine del nord Italia, che quelle per le quali ho cercato di raccogliere delle informazioni in maniera un po' più sistematica, dal Piemonte alla Liguria, dal Trentino Alto Adige al Friuli, al Veneto, alla Lombardia. Però mi sembra che questo tipo di organizzazione abbia caratteristiche, sia diffusa un po' in tutta Europa. Ci sono aspetti dell'organizzazione sociale, politica e religiosa delle comunità rurali sulle quali vorrei soffermarmi, perché mi sembrano possano mettere in luce come i confini fra laico ed ecclesiastico non sono definiti, così come non lo sono quelli fra parrocchia e comune. Anzi, sono distinzioni fittizie, in quanto parrocchie e comuni tendono per molti aspetti a sovrapporsi. Il comune è un elemento centrale nella vita e nell'organizzazione religiosa delle comunità. Il comune, come ho già detto, amministra i beni della Chiesa e a volte anche quelli di alcune confraternite. La maggior parte dei redditi sono utilizzati naturalmente per la costruzione, la manutenzione, l'arredo delle chiese e per provvedere in tutto o in parte al sostentamento del parroco. Il comune, in collaborazione con le confraternite, si occupa dell'assistenza e della beneficenza. L'assemblea dei vicini può avere il diritto di nomina del parroco o del curato. I rapporti fra parroco e comunità, con gli obblighi reciproci, sono spesso definiti da patti regolarmente formalizzati e sottoscritti alla presenza di un notaio. Il comune, direttamente o tramite le confraternite comunali, gestisce anche quei riti di integrazione simbolica fra i membri della comunità, e tali possono essere considerate le cosiddette carità, cioè i pasti collettivi e le distribuzioni di cibo che avvengono in particolari occasioni. Tutti questi aspetti di interferenza fra parrocchia e comune possono essere considerati elementi di un passato residuale e spesso sono considerate tali anche da chi se ne occupa o ne accenna in vari studi. La cosa curiosa che mi ha incuriosito è che sembrano sempre sul punto di scomparire, però non scompaiono mai. Li troviamo nel XV secolo, ma li troviamo anche nel XVIII secolo ed oltre. E adesso vorrei fermarmi brevemente su tre aspetti, quello dei giuspatronati comunitari, sugli statuti parrocchiali e poi sulle carità. Il diritto di nomina o di presentazione del parroco o del curato o dei cappellani da parte della comunità è piuttosto diffuso per tutta l'età moderna, nonostante, secondo Greco, fosse l'area più debole dei patronati laicali, in quanto soggetta ad attacchi che provenivano da più fronti, dagli ordinari diocesani come dai signori feudali o dai proprietari laici. Non è ancora possibile avere un'idea della loro importanza dal punto di vista quantitativo, perché mancano ancora ricerche sufficienti in questo senso. Quelle che esistono sembrano però dimostrare come non fosse un fenomeno irrilevante. In Trentino sono diffusi soprattutto in alcune zone e riguardano quasi esclusivamente i benefici curaziali. Il diritto di presentazione comunitario veniva concesso dal vescovo o dal capitolo cattedrale nel momento del distacco dalla pieve, dalla matrice, perché la comunità si impegnava a mantenere il sacerdote. Nel territorio veronese, nel Cinquecento, il giuspatronato comunitario è limitato quasi esclusivamente ai 13 comuni sulle montagne dei Lessini, ma si estende successivamente anche alla zona collinare e pedemontana, così che all'inizio dell'Ottocento interessa una cinquantina di parrocchie, senza mai arrivare a toccare però i centri urbani o quelli della pianura. È un fenomeno tipicamente montano. A Firenze, all'inizio del XVI secolo, su 333 parrocchie rurali, più di 80 erano di giuspatronato popolare. Nella diocesi di Bergamo, a metà 600, su 262 parrocchie, 118 erano di giuspatronato della vicinia. Riguardo all'elezione del parroco, L'elezione del parroco spettava normalmente ai vicini, ai residenti, i quali, convocati nell'assemblea, sceglievano fra più candidati, oppure era un diritto di pertinenza dei consigli comunali. A volte il giuspatronato di una curazia poteva essere detenuto dalla comunità e dal piovano congiuntamente. In questo caso i candidati dovevano essere scelti di comune accordo o il candidato scelto dalla comunità doveva poi essere confermato dal pievano. Le modalità potevano essere differenti e non sono facili da ricostruire. Un piccolo esempio preso ancora dal territorio trentino. Sul finire del Settecento, ad esempio, i vicini di Romagnano, che è un paese poco distante da Trento, si ritrovano nella canonica per nominare il nuovo curato. Nel verbale della regola viene trascritto l'elenco dei vicini, vecchi e nuovi, con il relativo diritto di voto. Non tutti i vicini hanno un voto a testa, alcuni mezzo voto, altri un quarto, un quinto, fino a un ottavo. Tra i vicini vecchi e nuovi, questa mi sembra una cosa interessante, però non so spiegarla molto, ci sono, fra i vicini vecchi e nuovi, dicevo, con diritto di voto, ci sono i rappresentanti del monastero delle Suore di Santa Trinità e il collegio dei Somaschi della città di Trento. Fra di essi, infine, c'è anche una donna, non perché abbia, ma perché è vedova di un vicino e ha diritto solo a mezzo voto. I vicini votano il curato fra una lista di nomi, chi ottiene la maggioranza dei voti è nominato curato e deve sottoscrivere, come vedremo meglio, tutta una serie di nomi, di obblighi. Legati al giuspatronato comunitario vi erano alcuni diritti, a volte espressamente previsti nei decreti di erezione di nuove curazie, diritti che erano una sorta di contropartita all'onere che la comunità si assumeva nella dotazione del beneficio e che collocavano il clero in una posizione di incertezza riguardo al proprio futuro e di dipendenza dalla comunità. Mi riferisco a questi due aspetti. I sacerdoti potevano essere amovibili ad nutum, cioè potevano essere licenziati a discrezione della comunità ed essere nominati ad tempus, cioè per un preciso periodo di tempo. Nella diocesi di Chioggia, nel secolo XVII, ad esempio, l'arciprete di Cavarsere era nominato a vita dal maggior consiglio cittadino, mentre i 5 cappellani erano amovibili, eletti per un biennio, con, cito, l'obbligazione di ufficiare la Chiesa e confessare e dir messa solamente a comodo dei popoli. Riguardo ai patti, capitolati o statuti parrocchiali, questi fissavano i diritti e i doveri delle due parti, il parroco e la comunità. Questo tipo di documentazione, parallelamente agli statuti rurali e ad altre fonti, potrebbe gettare nuova luce, da un lato sulle forme organizzative delle comunità rurali, dall'altro permetterebbe di verificare le forme locali e laicali di controllo e gestione della parrocchia. La loro stesura poteva essere molto antica, rinnovata con una certa frequenza. Gli uomini della curazia di Predazzo, dipendente dalla pieve di Cavalese, e che comprendeva tutta la Val di Fiemme, sono in grado di mostrare ai visitatori vescovili, in occasione della visita pastorale di fine Cinquecento, i patti e convenzioni fra il pievano e la comunità. La prima stesura risaliva al 1382, ne seguivano altre sempre nel 1397, 1407, 1471, eccetera, eccetera. In occasione della nomina e dell'insediamento di un nuovo pastore, questo era tenuto sulla pubblica piazza, alla presenza di tutta la comunità, a giurare di rispettare i patti e a sottofirmare un documento relativo alla presenza del notaio. Nella pieve di Ossana, sempre in Trentino, la pergamena di queste obbligazioni, che viene stilata nel 1546, viene sottofirmata dai pievani che si susseguono fino al 1629, poi viene rinnovata. Gli statuti parrocchiali non sono legati alla natura giuridica del beneficio, non sono cioè solo le comunità che hanno il giuspatronato che obbligano i loro sacerdoti a sottoscrivere l'elenco dei diritti e dei doveri reciproci. I patti sono presenti anche in parrocchie con benefici di libera collazione vescovile o dalla Santa Sede o con altre forme. La puntuale definizione degli obblighi dei sacerdoti è uno dei momenti essenziali della regolamentazione giuridica del processo di distacco delle curazie dalle pievi, dalle chiese matrici. Quali sono allora i diritti e i doveri dei sacerdoti? E gli elenchi possono essere più o meno lunghi e dettagliati, ma alcuni obblighi in particolare si ritrovano con una certa frequenza. Innanzitutto il numero di messe da celebrare nelle varie chiese, oratori, altari del territorio parrocchiale, con l'indicazione precisa dei giorni e particolari da rispettare. Questo mi ha chiarito anche perché spesso nei documenti visitali, nei verbali di visita, si trova la notazione, il vescovo, il visitatore dice, chiede a un sacerdote quante se celebra nel corso della settimana e il parroco o qualche altro sacerdote risponde molto spesso non lo faccio perché non sono obbligato. Non capivo cos'era questo non essere obbligato e penso che risalga proprio a questo tipo di obblighi. E sempre questi patti si stabilivano inoltre i compensi dovuti ai sacerdoti per battesimi, matrimoni, funerali di adulti o di bambini, messe e cerimonie particolari. Il sacerdote era obbligato a rispettare la residenza o a provvedere di tasca sua a mantenere un vicario. Questo potrebbe dimostrare come non fossero poi molto rispettati, visto che sappiamo che almeno per tutto il corso del Settecento, ma anche molto oltre, l'obbligo della residenza era un problema. Vi erano poi tutta una serie di obblighi diversi che sembrano aumentare nel corso del tempo. Pagare i predicatori in avvento e quaresima, offrire dei pasti in particolari ricorrenze, fornire cere e candele, ma anche far scuola ai bambini, non solo la catechesi, ma la scuola ai bambini. A volte si cercava di migliorare l'efficienza pastorale del prete. Sempre in Trentino, a Gardolo, un curato doveva spiegare il Vangelo per circa 15 minuti durante la messa cantata e insegnare la dottrina cristiana spiegando le virtù e l'utilità dei santi sacramenti. Questo è un documento del 1772. A volte si cercava anche di regolarne la vita privata. In Valtellina, a Forcola, il curato non doveva essere concubinario pubblico, né giocare a dadi e a carte e, tanto per sottolineare il concetto, non doveva concubere con alcuna aliqua femmina del comune della Forcola, sotto pena di non ricevere per un anno le sue entrate. I capitolati non erano fissi, ma vi potevano essere aggiunti nuovi obblighi approvati dall'assemblea dei vicini che tenevano conto di nuove esigenze della comunità. Saltiamo. Passo alle carità. Momenti importanti dell'integrazione comunitaria passano attraverso le cosiddette carità. Vale a dire i pasti collettivi o pasti funerari che consistevano nella distribuzione di cibo in quantità anche notevoli ai poveri e o agli abitanti del villaggio. Erano distribuzioni di pane, a volte di carne, fave cotte, piselli, formaggio e vino. Dipende. A queste consuetudini sembrano avere un'estensione notevole. Ci sono le regioni alpine italiane, ma ho trovato saggi che ne parlano per le vallate svizzere o per il massiccio centrale in Francia. Le distribuzioni avvenivano in occasione di particolari solennità religiose. In particolare nel giorno di Pasqua o di Venerdì Santo, in coincidenza con la fine dell'inverno e l'esaurimento delle scorte alimentari, ma potevano essere anche altre festività, i momenti religiosi, il giorno della dedicazione della Chiesa, oppure le processioni delle rogazioni o altre processioni. Queste distribuzioni, inizialmente destinate ai poveri del villaggio, in seguito a un processo di dilatazione della categoria di povero, venivano estese a tutti i vicini. Il pasto collettivo, in questo caso, costituiva un'occasione di incontro per la gente del paese, un momento conviviale e simbolico in cui venivano affermati e rinsaldati i vincoli di vicinato. Le carità erano legate a particolari lasciti testamentari. Ad esempio nel Vallese in Svizzera, nel periodo fra il 1500 e il 1533, sono stati trovati 314 testamenti in cui sono previsti pasti funerari in memoria del testatore e dei suoi antenati. Questi legati venivano gestiti dagli amministratori dei beni della Chiesa oppure erano organizzati da confraternite specifiche, quella dei disciplini ad esempio o quelle dedicate al santo protettore del villaggio. Le confraternite naturalmente poi organizzavano un pasto conviviale annuale per i membri della confraternita, frequentemente. Le tracce di queste usanze compaiono non infrequentemente negli atti visitali, proprio perché erano decisamente avversate dalle gerarchie ecclesiastiche. I tentativi da parte dei vescovi di convertire le carità del comune in beneficenza, così come i tentativi di scoraggiare o abolire i convivi confraternali, considerati occasioni di abusi ed eccessi, si susseguono nel corso del tempo. Nella Valpolicella del Cinquecento i vescovi cercano di convertire i pasti conviviali in elemosine per i poveri. Giberti, ad esempio, nel 1530 a San Giorgio di Valpolicella propone di sostituire il convito di San Marino, Martino, che genera scandali, con la costituzione di doti per tre ragazze. Ma 9 anni dopo i fedeli richiedono il pasto. Nella visita pastorale Madrusso di fine Cinquecento, in un paese del Trentino, i visitatori chiedono l'abolizione della carità, obbligano all'abolizione della carità, con una durezza di toni abbastanza inusuale. Gli uomini sindaci non devono in alcun modo convertire i redditi pertinenti alla fabbrica della Chiesa in quella sua nominata carità, ma confusione, baccanali, strapazzo di roba, e se vogliono far tale carità la faccino del suo, non di quello che alla Chiesa è destinato. In realtà non si tratta solamente di una lotta agli sprechi, in gioco ci sono cose ben più importanti: il controllo sull'utilizzo dei beni della Chiesa, il tentativo di sottrarre la gestione dei beni della Chiesa ai comuni o almeno di porla sotto il controllo dei parroci. Più in generale, anche questi episodi marginali, se volete, mi sembrano spie del tentativo riuscito di stabilire netti confini fra sacro e profano, fra laico ed ecclesiastico. Uno degli sforzi maggiori attuati dalla Chiesa nell'età moderna e uno degli sforzi meglio riusciti, e a questo penso ad esempio appunto alla definizione ad esempio della differenza fra luogo sacro e spazio sacro, ma anche alla definizione dello status clericale come diverso da stato laico, ma questo forse non c'entra molto e va al di là. Allora, concludo con una nota su quella che potrebbe essere un'integrazione proprio fra gravamina e comunità rurale, per tornare al titolo, con un esempio. Nella dieta di Merano, nel maggio-giugno 1525, nel periodo delle guerre contadine, fu formulato, per essere proposto alla dieta di Innsbruck, un documento di gravamenti in 64 punti, i cosiddetti 64 articoli di Merano. Il documento, presentato al principe Ferdinando d'Asburgo, doveva servire nelle intenzioni degli estesori per ripristinare il bene comune troppo a lungo disatteso a favore dell'egoismo personale, per rispettare la giustizia divina, perché si è mantenuto l'amore divino e la fraternità. Limitandosi ai punti relativi alla buona organizzazione della parrocchia e ai doveri di un buon parroco, il documento proponeva le seguenti riforme. I religiosi e i preti assunti dovevano essere istruiti nella Sacra Scrittura, nel canto, e dovevano saper predicare la parola di Dio e il Vangelo, senza aggiungere nulla. Dovevano essere onesti e non frequentare le taverne. Gli ecclesiastici non dovevano avere più di un beneficio o pieve, e le entrate superiori ai bisogni dovevano essere tolte e date ai poveri bisognosi. I pievani non potevano affittare la loro pieve, ma dovevano avere non dovevano avere redditi se assenti dalla parrocchia, ma dovevano in realtà rispettare la residenza, essere presenti. Ogni terra e giurisdizione doveva avere il potere di eleggere il proprio pievano, di assumerlo e di licenziarlo. Nessun frate o religioso doveva essere assunto come pievano. Nessun sacerdote, infine, doveva chiedere denaro per amministrare i sacramenti. Questi gravamina, più che essere segno di anticlericalismo, a volte vengono letti questi documenti come appunto segno di anticlericalismo, sono, a mio parere, espressione di un modello ideale e di struttura organizzativa ecclesiastica che si rifà ad una lunga tradizione e che trova riscontri concreti nella reale struttura organizzativa delle comunità presenti nel territorio. Proprio questa struttura si cercherà di preservare o di realizzare, e a questo modello continueranno a rifarsi le richieste e i gravamina di molte comunità nel corso di più secoli. Allora, grazie dottoressa Nubola. Il cammino su cui ci ha condotto è veramente un cammino tanto interessante quanto desueto. Ecco. Io penso che sia proprio uno dei punti centrali, per quanto riguarda in particolare le campagne, in cui vediamo questo scontro, insomma, tra le tradizioni appunto di elezione dei curati da parte della comunità, eccetera, che sono dominanti nell'Europa medievale, e il processo di modernizzazione, appunto, chiamiamolo così tra virgolette, insomma, per intenderci, che viene attuato con le visite pastorali, che si scontra quindi duramente con questa tradizione. Quindi molte grazie. E